voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Cotonificio Albini, la stoffa dell'imprenditore dal 1876, di Maria Chiara Grandis. Il tessuto è fatto di un ordito e di una trama che fra loro si intrecciano. Fare tessuti è uno dei mestieri più antichi e tradizionali al mondo, era proprio quello che volevo fare. Silvio Albini, classe 1956, è il presidente dell'azienda di famiglia. Con 135 anni di storia, il cotonificio Albini è leader europeo nella produzione di tessuti per camiceria. 1.300 dipendenti, 8 sedi nel mondo e un fatturato in crescita nonostante la crisi. 120 milioni di euro nel 2011. Millennium Star e Cullinan sono fra le ultime creazioni, chiamate con i nomi dei diamanti più preziosi. Ma tutto ebbe inizio pochi anni dopo l'Unità d'Italia ad Albino, nella Bergamasca. 1876, in Val Seriana, dove si era sviluppata in quegli anni una fiorente industria tessile cotoniera, proprio perché le condizioni che gli imprenditori qui trovavano erano positive in termini di buona manodopera, c'era buona acqua. E chi ha fondato questa azienda? Un nostro lontano parente che aveva uno strano nome, Zeffiro Borgomanero, il che dice che non era autoctono qua di Albino, ma viene dall'area di Busto Arsizio, si era trasferito qua. Sappiamo che ha fondato questa piccola tessitura, che poi è passata ad un suo nipote, Giovanni Albini. Fra fine 800 e primi anni del 900 è stato un grandissimo imprenditore tessile, ha fondato anche una grande filatura che nel frattempo è passata ad altri eredi e che oggi non c'è più. Giovanni Albini è stato presidente della Camera di Commercio di Bergamo ed era veramente un imprenditore con grandi, grandissime vedute. Poi l'azienda è passata a suo figlio Silvio, mentre l'altro ramo, la filatura, è passata al suo primogenito che si chiamava Riccardo, e quello è stato un altro ramo della famiglia. Dopo un solo anno di attività, la tessitura è già dotata di 40 telai meccanici e impegna 44 operai. Alla fine del XIX secolo sono più del doppio. Negli anni 20 del Novecento l'azienda è guidata dal nonno Silvio. Questa tessitura ha preso il nome da mio nonno, dottor Silvio Albini e Cimio, nonno si chiamava Silvio come me. Da allora si è sviluppata specializzandosi sempre più in tessuti per camiceria di qualità molto fine, quindi un tessile già allora sofisticato. È stata aggiunta una tintoria filati, mio nonno era un dottore in chimica studiato in Germania, e da allora proprio questa specializzazione ai tessuti tinti in filo per camiceria è stata la strada presa dall'azienda. La specializzazione è proprio uno dei nostri punti di forza, la vogliamo assolutamente mantenere. Con nuove forme di organizzazione e l'introduzione di telai semiautomatici, il cotonificio Albini supera la prima crisi strutturale del settore tessile e sopravvive alla Seconda Guerra Mondiale. Ricordo mio nonno che, a proposito della crisi del 1929, che è stata una delle aziende che non è andata in amministrazione controllata, a differenza di tante altre aziende. Poi vengo alle guerre mondiali, ma i miei progenitori e i nostri genitori ci hanno più volte detto di essere sempre molto innovativi dal punto di vista del prodotto, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e molto conservatori dal punto di vista finanziario. Questo è un insegnamento che nel tempo ha mantenuto in piedi l'azienda, e credo che anche in tempi difficili come oggi debba essere un insegnamento molto importante. Durante le guerre è chiaro, abbiamo fatto meno moda e più tessuti tecnici e di guerra. Era molto difficile in quel periodo, mi raccontavano, procurarsi il cotone, per cui in quel momento noi, che siamo sempre stati molto rivolti alle fibre naturali, al più bel cotone al mondo, si usavano fibre tipo viscosa. Quindi è chiaro, in un periodo di guerra ci si è dovuti adattare alle circostanze. Del resto, in 135 anni di storia, tante volte ci siamo dovuti adattare, ce l'abbiamo proprio, credo, un po' nel nostro DNA di essere flessibili e di essere capaci di seguire i mercati, seguire le situazioni come è richiesto, ecco. Flessibilità anche mentale, quindi. Nel 1968 il cotonificio Albini passa alla quarta generazione con Papà Marino. Sono gli anni del boom economico e il settore vive una fase di slancio. Ma è con l'arrivo della quinta generazione che avviene il salto. Protagonista della nuova stagione è Silvio Albini, allora 25enne e oggi presidente dell'azienda. È stato molto bello il mio ingresso in azienda, dopo, aver fatto l'università e il militare. Io non ho studiato ingegneria, ero l'unico in famiglia che non l'ha fatto. Ho studiato discipline economiche e sociali. Sono entrato in azienda dedicandomi di più alla parte commerciale e allo sviluppo sui mercati esteri. Allora i mercati esteri c'erano, ma rappresentavano credo il 15% del giro d'affari. Per un ragazzo giovane come me che voleva trovare un suo spazio all'interno dell'azienda, entrando un po' in punta di piedi, senza volere strafare subito e senza arroganza, mi sono trovato questo spazio dello sviluppo all'esportazione che mi ha dato molto, mi ha fatto crescere, mi piaceva tantissimo andare in giro per il mondo, prima in Europa, in vari paesi, poi anche fuori, e andare in giro con la valigetta del campionario nel mondo e allo stesso tempo portare dei risultati. Quindi in questo modo mi sono trovato una legittimità basata sui risultati, facendo bene all'azienda. Ecco, oggi la nostra azienda esporta in 80 paesi al mondo il 70% del fatturato. Il singolo mercato oggi più importante è il mercato italiano, comunque circa il 30%. Anche quello che vendiamo in Italia è poi esportato sotto forma di capo confezionato dai più bei nomi della moda italiana, attraverso i quali noi pure raggiungiamo indirettamente i grandi mercati nel mondo. Ecco, siamo assolutamente un'azienda molto globale. Negli anni successivi entrano in azienda anche il cugino e i fratelli di Silvio. Fabio, designer del prodotto e dei tessuti, Andrea, responsabile degli stabilimenti, e Stefano, che cura la parte amministrativa e finanziaria. La famiglia può essere un grandissimo valore e una grandissima potenzialità per un'azienda come la nostra. Anzi, proprio in un settore difficile come il tessile, penso che l'essere familiare è molto importante. Una famiglia, se funziona bene, se va d'accordo, ha una visione di lungo periodo del proprio lavoro, del business in cui opera, che non è la stessa quando la visione è di molto più breve periodo, quando prevalgono considerazioni finanziarie di breve periodo, quando c'è meno passione, si vive solo in base ai calcoli di convenienza. È ovvio che i calcoli di convenienza sono importanti anche per noi, ma la passione e la visione di lungo periodo veramente sono predominanti. Il settore tessile in Italia è soprattutto basato su imprese familiari, in moltissimi casi di grande successo, mentre in altri paesi europei, in primo luogo penso all'Inghilterra, penso alla Francia, alla Germania, in cui c'era una industria tessile fortissima, il venire meno delle imprese familiari è stato, credo, una grossa causa del declino del tessile in quei paesi. Una tessitura in Repubblica Ceca e due stabilimenti in Egitto. Ancora oggi la sede principale del cotonificio è ad Albino, in provincia di Bergamo, nella via che porta il nome del nonno dell'attuale presidente, Silvio Albini. Siamo molto attaccati a questo territorio, siamo qui da quinte generazioni, qui ad Albino in Val Seriana. Abbiamo un grande numero di nostri collaboratori, Penso che dobbiamo essere molto grati a questo territorio perché la qualità, e la professionalità e la dedizione al personale che qui abbiamo trovato è stata grandissima. Veramente nel tempo una ricchezza di questo territorio è competenza e la dedizione al personale. Abbiamo ricevuto tanto, quindi penso che dobbiamo anche dare molto a questo territorio. Quindi siamo molto radicati e vogliamo continuare ad esserlo. È un po' anche una caratteristica nostra quella di non volere delocalizzare a oltranza in modo molto ampio come hanno fatto altri imprenditori tessili. Per noi il Made in Italy e la produzione industriale è veramente importante nel nostro DNA e ci siamo estremamente attaccati. Per noi è molto importante. Nei primi anni 90 il cotonificio Albini acquisisce due storici marchi inglesi: Thomas Mason, fornitore dei camiciai della famiglia reale, e David and John Anderson. Negli anni successivi entrerà nel gruppo anche la manifattura di Albiate. Ogni sei mesi dai telai degli stabilimenti del cotonificio escono nuove collezioni, ciascuna con 6.000 varianti. Prima di tutto, per Silvio Albini, viene la qualità delle materie prime. Siamo dovuti andare noi a coltivare queste materie prime. Abbiamo sviluppato una nostra piccola coltivazione di cotone in Egitto per migliorare ai massimi gradi la materia prima. Ciò ha consentito di produrre filati finissimi, molto pregiati, puliti, che hanno poi consentito di fare questi tessuti estremamente fini, leggeri, compatti, che oggi sono molto coerenti con la moda, sono molto coerenti con la richiesta di lusso nel mondo, consentono di fare disegni estremamente ben definiti, estremamente fini, che vengano particolarmente apprezzati, per esempio, nei mercati emergenti, dove la voglia del massimo grado di finezza, di lusso, è importante. Altro punto di forza di una collezione è il colore. Sono, dal punto di vista estetico, un po' anglofilo e mi piacciono i tessuti dai colori profondi e con un certo anche peso e corpo. Io spesso dico che una delle nostre vocazioni in fondo è quello di ricolorare sempre tessuti che spesso sono anche hanno delle disegnature tradizionali, ma uscire col colore giusto al momento giusto, quindi seguendo i cicli della moda ma anche proprio usando nel colore, è una delle nostre missioni fondamentali. Viviamo di colore. Dopo Paolo Zegna e Pierluigi Loropiana, Silvio Albini è anche alla guida di Milano Unica, il salone italiano del tessile. In un mondo globalizzato, dove la concorrenza punta su prezzi competitivi, il tessile italiano sceglie la qualità e l'Expo 2015 di Milano può rappresentare un'ulteriore vetrina per le imprese nostrane. Io credo che compito un po' di noi imprenditori di questa realtà manifatturiera italiana sarà di far conoscere di più questa realtà manifatturiera a chi verrà a Milano e dovremo trovare il modo di farlo. Questo potrebbe essere un po' il nostro valore aggiunto di imprenditori e in questo insieme ai miei vicepresidenti, a Paolo e a Pierluigi, stiamo sviluppando Milano Unica in Cina e porteremo a breve il meglio delle aziende espositrici di Milano Unica in Cina due volte l'anno, proprio per andare in uno dei mercati più promettenti. Oggi lo storico cotonificio di Albino investe sul prodotto unico e su servizi su misura per i clienti. Innovazione e creatività da un lato e tradizione dall'altro sono le parole con le quali si può raccontare l'avventura dell'azienda bergamasca. E dopo 135 anni di attività dell'impresa di famiglia, Silvio Albini ha preso un impegno. Questa quinta generazione ha veramente un obiettivo di fondo, di consegnare l'azienda sana, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, sana alla sesta generazione. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.